Mix 24 di Giovanni Minoli. Lei sa cos'è il bail-in? No. No, no, no. No, no, no, no, no. Il bail-in? No. È un'azione. Bail-in? Bail-in. Ah, è una... uno stato. Bail-in mi suona come una cosa bella, no? Di che si tratta? Ah, bail-in. Non lo so. Ah, ho capito, sì sì, contribuiscono i soci a ripianare le perdite. Dal 1 gennaio 2016 se la banca fallisce pagano azionisti e correntisti sopra 100.000 euro. È un meccanismo perverso che mette a serio rischio di chiunque abbia dei risparmi nelle banche. Che gliene sembra? Non è tanto carina come cosa. Auguriamoci di no. Lei è d'accordo? Ma assolutamente no, no. No. Ma in banca l'hanno informata? No. No. Nei bail-in no? No, no. No. No, no, l'ho letto da qualche parte. No, banca non esiste, sul giornale, l'ho letto sul giornale. E i controlli bastano sulle banche, quelli che vengono fatti in Italia? È difficile rispondere, suppongo di no. No. La banca è il quarto potere, o il primo potere, assoluto. Normalmente trova la trasparenza bancaria buona? Insomma, mica tanto. No. Il cliente deve farsi furbo, molto spesso la banca non è limpida e cristallina nei suoi confronti. Lei trova che le banche informino sufficientemente, ci sia trasparenza e chiarezza? Sufficientemente, non in maniera integrale. Lo è parzialmente. Cioè dove dovrebbero migliorare soprattutto? Nei prodotti che uno firma, perché sono queste centinaia di fogli che poi uno finisce per non leggere perché dice vabbè, speriamo bene. Li legge i documenti bancari, controlla sempre tutto? La radio fa la pubblicità di certe cose e dice legge attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, non legge nessuno. Firma anche lei spesso senza leggere? No, mette tante firme di corsa e si deve fidare del suo gestore. Non mi interessa perché io non ho il conto in banca. Lei non ha nessun rapporto con le banche? No. Ho acquistato dei prodotti bancari, mi sono fatto consigliare da una referente, mi ha spiegato sommariamente di cosa si tratta. Si è fidato? Mi sono fidato, diciamo. Mi affido alla provvidenza. Fidarsi del funzionario ma sapere sempre di cosa si sta parlando. E sa sempre quello che acquista. I fondi che sono consigliati dalle banche sono la cosa più oscura che può esistere. Non c'è nessuna trasparenza. È un magma. Qual è il rapporto tra gli italiani e le banche allora? Per molti è un rapporto difficile, poca informazione, poca chiarezza, poca conoscenza su cosa si acquista e su come le banche investono i nostri soldi. Ma attenzione, dal prossimo anno, da gennaio 2016, non essere ben informati sulla propria banca, sui propri investimenti, può costare davvero molto caro, perché con l'entrata in vigore del bail-in bancario siamo tutti più responsabili e se la banca fallisce paghiamo anche noi, proprio come soci di una qualunque azienda con i conti in rosso. C'era una volta il bailout e le banche in crisi potevano contare sugli aiuti di Stato, ovvero denaro pubblico, soldi freschi di contribuenti versati nelle casse per far quadrare i conti di banche piccole e grandi, anzi, soprattutto delle mega banche. E così, al grido di too big to fail, troppo grande per fallire, gli stati di tutta Europa per anni hanno bruciato miliardi e miliardi per salvare le loro banche nazionali. Qualche numero. Gran Bretagna, 167 miliardi, Germania, 144, 41 miliardi la Spagna, 67 l'Irlanda, 98 il Portogallo e 240 la Grecia, secondo gli ultimi dati della Troica. Ma questa è storia vecchia, perché dal 1 gennaio 2016 il bailout va in pensione e arriva il bail-in, il salvataggio interno della banca. E così, come vuole la nuova Bibbia delle banche, la Bank Recovery and Resolution Directive, direttiva altrimenti nota come BRRD, se la banca fa crack, saranno azionisti, proprietari di obbligazioni e correntisti con più di 100.000 euro a farsi carico dei debiti della propria banca. Restano sempre salvi da ogni fallimento i bond garantiti, i debiti di dipendenti, fisco, enti previdenziali, fornitori e tutti coloro che hanno meno di 100.000 euro sul proprio conto corrente. È giusto che un piccolo azionista o un correntista con 100.000 euro sia responsabile delle sorti della propria banca. È giusto che a salvare i conti non sia più lo Stato, il pubblico denaro, ma gli stessi depositi della banca e quindi i soldi dei clienti? Giovanna Corsetti ha intervistato il senatore Elio Lannutti, presidente di ADUSBEF, l'associazione dei consumatori che difende proprio gli utenti bancari. Senatore, d'accordo con il sistema del bail-in? è un esproprio criminale dei risparmi da parte delle oligarchie e cleptocrazie europee della BCE e della Troica. Addirittura un esproprio, perché? Che responsabilità un azionista, un obbligazionista o un correntista il cui deposito è superiore a 100.000 euro se c'è un crack di una banca, se c'è il dissesto. Mario Secchi, il bail-in è un esproprio anche per lei? Non va bene? No, secondo me va bene il bail-in perché induce le banche, le obbliga a principi di sana gestione e nello stesso tempo avverte i correntisti che non bisogna mettere i soldi presso lo sportello del primo che apre o che passa, ma presso gli istituti di credito che hanno la nomea della serietà, un management conosciuto. Ovviamente ci sono anche le mele marce qualche volta, però diciamo, insomma, i grandi marchi italiani alla fine hanno una garanzia. Senatore Lanutti, ma con il bail-in si pagano le scelte sbagliate. Bisogna controllare i propri investimenti e le banche. Vogliamo che il parco buoi paghi per i dissesti che non ha procurato lui, ma hanno procurato coloro che gestiscono, i manager che gestiscono la banca. Il parco buoi, ossia i piccoli azionisti, non decidono la vita della società. Sì, che il bail-in è uno scaricabarile sui più deboli. Se tu sottoscrivi azioni, sottoscrivi quote di capitale e non hai solo il dividendo, quindi il guadagno, ma hai anche il rischio. Bisogna che le persone siano consapevoli di questo. Quindi la norma sul bail-in, secondo me, è interessante per questo, perché introduce dei principi di civiltà. Civiltà? Insomma, mi pare un passo avanti rispetto a farlo pagare ai contribuenti, no? Però il correntista che responsabilità ha? Non è né un socio né un azionista. Anche il correntista deve sapere dove mette i soldi. Ti devi informare bene. Parliamo di denaro, quindi del tuo futuro. Ovviamente ci sono anche molti obblighi da parte della banca, ecco, è evidente. E la trasparenza sugli investimenti è sicuramente uno degli obblighi delle banche, soprattutto se poi sono io a dover pagare i debiti. E invece, proprio su questo, i consumatori sono meno soddisfatti. La trasparenza è come spesso succede in Italia, una cosa assolutamente astrusa, perché i documenti che pure poi le banche ti mandano, che sono di 15-20 pagine, sono scritte in una maniera che per uno qualunque come me, che pure è stato professore universitario, trova difficilissimo. Ma soprattutto perché è incomprensibile? Il linguaggio è un italiano assolutamente astruso. La banca deve dare una certa informazione preliminare, poi sta comunque a noi, sì, assolutamente sta anche a noi chiederle, però la banca deve anche fornirle in maniera adeguata a chi si trova davanti. Sono banche fraudolente. Perché? Falliscono e fregano dopo. Senatore Lanutti, come si può evitare di restar fregati? Evitare che allo sportello vengano venduti prodotti tossici, bisogna mettere nel contratto di lavoro, bisogna togliere i sistemi incentivanti, perché più si vendono bidoni e più si guadagna. Cosa vuol dire sistemi incentivanti? Il dipendente guadagna se piazza i prodotti della banca, buoni o cattivi che siano? Guadagna gli incentivi se piazza i prodotti, ma se rifiuta di piazzare quei prodotti, addirittura viene trasferito, viene punito. Mario Secchi, ma da questo come ci si può difendere? Dal consiglio fraudolento? Questo è un mondo, no? Dove esistono anche quelli che ne approfittano, come suol dirsi, anche in banca. È chiaro che le banche non possono avere comportamenti dolosi o fraudolenti, quindi rifilare dei titoli tossici. Però è già successo. Quando viene fatto questo, la banca non solo è censurabile dal punto di vista etico, ma secondo me è perseguibile dal punto di vista giudiziario e penale. Quindi questo va chiarito. Il risparmiatore deve affidarsi innanzitutto a banche che sono note per la loro solidità. Senatore Lanutti, ma perché i consumatori rischiano investimenti con banche, diciamo, non proprio solide? C'è anche un po' una propensione all'avidità e quindi ad essere truffati. Che vuol dire? Ci chiamano tutti i giorni e ci chiedono: ma io posso investire? Mi dicono il 6%, oggi i tassi di interesse sono addirittura sotto zero sui bot, l'1%, se uno chiede il 3-4%, se perdi il capitale nessuno ti potrà difendere. Se chi si sbaglia davvero per avidità? Devi avere una responsabilità, perché altrimenti sarebbe troppo facile. Io vado dalla banca che mi offre il 7, 8, 10, 12%, completamente fuori mercato ovviamente, pensando che il guadagno sia tutto, e in realtà la banca è anche sicurezza. Su questo però dovrebbero far molto i controlli. Ci sono questi controlli, senatore Lannutti? I controlli fanno acqua da tutte le parti. Perché dice questo? In questo paese ci sono troppe banche commissariate. Perché sono commissariate? Perché i controlli non funzionano. Se i controlli funzionassero, non ci sarebbero i crack. Carife, Banca Marche, Carichieti, Banca Etruria sono oggi commissariate in attesa di decisioni. Ma l'interpretazione più diffusa è che nell'epoca del bail-in anche la sofferenza di queste banche si gestirà con le nuove norme e a pagare saranno azionisti e correntisti. Giovanna Corsetti ha intervistato un azionista di una delle quattro banche commissariate che ha chiesto il totale anonimato anche sul nome della sua banca. Attualmente la banca è stata commissariata. Quali sono state le informazioni che avete ricevuto dalla vostra banca? Assolutamente nessuna. Lei perché ha acquistato azioni di questa banca? Per semplice investimento. Ma è stata una sua iniziativa o le è stato consigliato? No, è stata la mia iniziativa, valutando alcune considerazioni sul mercato. Sa che con il bail-in probabilmente sarà lei a pagare con il valore delle sue azioni? Purtroppo lo so, per conoscenza avuta attraverso informazioni personali. La maggior parte delle persone non hanno nessun tipo di informazione, non sanno assolutamente cosa andremo ad affrontare dal 1 gennaio 2016. Ma la banca non le ha detto niente di questo? No, le banche non hanno interesse a dare queste informazioni, anche perché si sposterebbero masse di conti correntisti, azionisti o obbligazionisti da una banca all'altra in base alla solidità. Posso chiederle più o meno a quanto ammonta la sua perdita? Oltre 150.000 euro, risparmi di gran parte di vita. Lei ha da rimproverarsi qualcosa? Cioè avrebbe potuto fare di più per informarsi? Assolutamente no, perché comunque o partiamo dal presupposto che le informazioni, poche che siano oneste, o se no il mercato non esiste. Non ha senso fare un investimento se giocano con le carte truccate. Giulio Romani, come segretario generale di First CISL, il sindacato di settore per banche assicurazioni, lei lo trova giusto? Non è giusto, è semplicemente un'assurdità, perché immaginare una retroattività è una cosa anche dal punto di vista della nostra abitudine giuridica piuttosto illegittima. Ma voi come sindacato non avete attivato nulla? Il fondo interbancario ha già deliberato il sostegno alle quattro banche per più di 2 miliardi. Ma non sono soldi privati, mi scusi? Sono soldi assolutamente privati, perché sono soldi finanziati pro quota dalle singole banche aderenti al sistema, e ciò nonostante l'Europa sta tenendo bloccate, bollandoli come aiuti di Stato, che è una cosa incredibile, perché non sono aiuti di Stato, perché sono soldi privati. E cosa si può fare? Che consiglio, che azione si può intraprendere? Questo tipo di normativa produrrà sicuramente dei ricorsi di tipo giuridico, ci saranno probabilmente avvocati che promuoveranno class action, ci si potrà rivolgere alla Corte di Giustizia Europea, poi dopo le strade sono mille, ma indubbiamente produrrà contenzioso. Class action, Europa, dunque, le azioni future, ma anche la nostra Sora Cesira ha una visione del bail-in. Bail-in, bail-out, sto cetriolo prende il volo e va, bail-in, bail-in, bail-in, bail-out, indovina dove finirà, bail-in, bail-in, bail-in, bail-out, adesso i soldi vai a ritrovar, mia zia. Non ce l'ha più trovata, le ha detto aspetta, adesso ti spieghiamo, cara mia, sta legge c'è, uscita fresca fresca, che se una banca sta guaiata, coi soldi tuoi lei ci si salva il culo. Bail-in. risparmiavi per la casa al mar. Bail-in, bail-in, bail-in, bail-out, per tuo figlio che deve studiare. Bail-in, bail-in, bail-in, bail-out, adesso bravo vali a reclamar. Olle! E adesso, come tutti i venerdì con Alessandra Fiori, sentiamo cosa c'è in questo weekend da non perdere. C'è un libro molto particolare appena pubblicato da Adelphi, Eccentrici, di Geminello Alvi, che a 20 anni di distanza da Uomini del Novecento torna con 42 nuovi brevi biografie, vite davvero straordinarie raccontate con una scrittura altrettanto fuori dal comune. Da Ferdinand von Zeppelin, inventore del dirigibile, a Cary Grant, passando per Salgari, Pancho Villa, Buster Keaton e Gentanni, il pugile scientifico campione mondiale dei pesi massimi. Ecco, Geminello Alvi. Eccentricità a parte, cosa accomuna queste 42 esistenze? Ma sai, io dovendo scrivere per motivi alimentari per i giornali, ho pensato bene di trovare degli argomenti originali, e soprattutto nella piattezza, nella scontatezza, direi, delle maggioranza delle citazioni, dei miti del presente, ho introdotto invece una quantità di esistenze che appunto sono del tutto, se vuole, eccentriche appunto rispetto al politicamente corretto, ai luoghi comuni che vengono appunto usati dalla stampa o dai giornali per spiegare alla pubblica opinione quanto è bene o quanto è male e confezionare quindi la convenzione, cioè la visione di questo mondo. Se le cose non vanno così bene oggi, anche perché mancano grandi esempi, mancano esempi di migliori o mancano esempi estremi, e il tutto si sta appiattendo appunto in un insieme di luoghi comuni. Come ha fatto a condensare delle vite così particolari all'interno di biografie così compresse, diciamo? È vero, sono brevi, ma richiedono una certa capacità di concentrazione, e usando l'aggettivazione, usando i verbi un po' all'antica, ci si ritrova ad usarli molto alla moderna, nel senso che poi un certo tipo di prosa è tra virgolette più estrema, più all'avanguardia di quella di tanti che si pensano invece oggi all'estreme o alla moda o avanti agli altri, cioè guardando indietro a Pizzuto, a Tommaseo, si ritrovano appunto delle espressioni, delle forme che mantengono l'eleganza della lingua italiana e al contempo hanno un effetto di rinfrescamento, di vivacità, di accelerazione della lettura. Nel suo libro molto spesso esprime dei giudizi, per esempio sull'istruzione, su quella che è considerata la cultura, sulla scuola, ovvero un luogo diverso da quello che dovrebbe essere. È questa l'omologazione di cui parla? La scuola di massa e la scuola affidata allo Stato è una delle catastrofi dell'epoca moderna, appunto, è uno dei meccanismi, assieme al giornalismo, più potenti dell'omologazione, insomma. Questo giornalismo, questa scuola, questo Stato sono appunto dei potenti strumenti di omologazione, di cinesizzazione del mondo, ecco. Quindi eccentricità in qualche modo è per lei anche un sinonimo di libertà? Guardi, qui bisogna stare attenti, perché qui tutti fanno gli eccentrici, e il paradosso è questo, che tutti vorrebbero essere unici, eccentrici, e tutti fanno le stesse cose e si accodano agli stessi luoghi comuni per esserlo. Quindi c'è la stravaganza di massa come progetto lanciato appunto dalla pubblicità, assecondato naturalmente dal marketing, dall'economia. Il marketing è quello che serve a vendere quello di cui uno non ha bisogno. E quindi invitare all'eccentricità è fortemente ambiguo. Ma dovendo scegliere una delle 42 vite che ha descritto, Salgari, Pancho Villa, Buster Keaton, lei quale sceglierebbe di vivere? La mia. Ma sentiamo cosa è andata a vedere questa settimana la nostra inviata molto speciale. I David di Donatella, che poi sono io. Donatella, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Donatella, tutto bene? Ottimamente, perché? Bene, allora dobbiamo parlare. E certo che dobbiamo parlare. No, Donatella, il film non è Dobbiamo parlare? Sì, certo. Dobbiamo parlare. Allora, un intreccio metafisico in cui i quattro protagonisti affrontano le reciproche qualche crisi di coppia, decisi a sfogare le proprie frustrazioni. Come? Ma sapete cosa non sopporto delle liti io? Questo bisogno di sfigurare l'altro. E lei si muove nei rapporti come se fosse al supermercato. Prende questo, prende quello, poi va alla cassa e si dimentica che deve pagare. No, Linda, invece devi pagare. Hai capito? Devono pagare perché è uno scontro catartico. Catartico? No, cantastico, con la N, eccolo, sta sulla trama. Ah no, senza N. No, ma scusi, Donatella, che fa, legge? No, lo so a memoria. Va bene, Donatella, ma catartico in che senso? Vabbè, te lo spiego io. Nel senso che ci stanno quattro ricchi che non c'hanno niente da fare. Allora si mischiano e si rimischiano e poi si mandano a fanculo al diavolo e non smettono più. Se questo pensa di potersene andare con quella zoccola a costo zero, ha capito malissimo. Zoccola a costo zero è un grandissimo simbolo. Ristrutturazione della casa 300.000, fattù. Macchinetta della figlia, panna in giro a fare la zoccola 5.000, fattù. Fattura, fattura. Andiamo davanti al giudice, voglio dire. Quanto gli devo dare? Questa è 300.000. Che? Ne ho già dati, ma. Affanculo. Ecco, ora scommetto che non ti arrabbi se dicono le parolacce, perché loro sono catartici, vero? Vabbè, Donatella, che dice? Scusi, che c'entra? C'entra, c'entra, poi ci credo che mi imparo la trama a memoria. Va bene, senta, Donatella, parliamo degli attori. Li so, me li sono scritti. Beh. Anni, aspetta, però ho lasciato gli occhiali in macchina. Allora, c'è Sergio Tacchini. Rubini, Sergio Rubini. Sì, lui. Poi c'è Isabella Isabella Aragonese, Fabrizio Bentivoglio e Maria Pia Calzone. Scusa, se li sai perché mi interroghi? Non sai che non sono brava con i nomi, poi specie con quelli stranieri. Donatella, però questi sono italiani. Dici? Va bene, Donatella, dobbiamo parlare. Un film di Sergio Rubini è uscito ieri, è una sorta di carnage italiano. Comunque era catartico con la N. E non credo. No, non credo. Cantartico, cantartico, cantartico. Grazie. Prego. Ecco comparire Pietrangelo Buttafuoco. Allora, Pietrangelo, dove si va questa settimana? Questa settimana, sebbene venerdì, sebbene fine settimana, ti porto in una scuola. In una scuola di Pozzuoli. A me non manca la scuola, perché mi porti a scuola? Siamo a scuola per fare delle scoperte, anzi, Alessandra, per fare delle riscoperte, per parlare degli scrittori italiani dimenticati o misconosciuti del Novecento con Davide Morganti, che è un giornalista, uno scrittore, è l'autore di Caina, edito da Fandango, altro che, com'è che si chiama quello lì famoso? Quale? Quello lì famoso che va molto famoso, va sempre di moda? Non ho idea, non allora, ho idea. Allora, non perdete tempo con Gomorra, leggete Caina, dopodiché ecco Davide Morganti che è un professore di lettere e lo incontriamo proprio nell'esercizio della sua funzione di maestro. Buongiorno! Buongiorno! Allora, professore, ci dica chi sono i dimenticati e i misconosciuti, non tutti, ma parliamo dei casi più gravi del Novecento? Sono tantissimi, attorno all'ordine di 100-150 autori, però volendo di tutto dall'osso, sicuramente Angelo Fiore, Giuseppe Occhiato, poi misconosciutissimi, e anche Gennaro Pistilli. Ecco, una breve didascalia, una breve informazione su questi tre. Angelo Fiore, siciliano, morto nel 1986, ha avuto anche grandi sostenitori come Geno Pampaloni o Romano Bilenchi, però non è bastato per farsi conoscere. In effetti è un autore estremamente irto, difficile anche, però ha una capacità di stare nel mondo, secondo me, che hanno pochissimi scrittori italiani. Io la tiro un attimo fuori dal Novecento e le chiedo invece, arrivando tra i contemporanei, chi sono i dimenticati e i misconosciuti di oggi? Ma per quanto riguarda quelli che oggi sono ancora viventi, credo Permunian, è uno scrittore anche lui molto molto complicato, però di grande immagine, proprio di grande visionarietà. Invece se parliamo di scrittori che hanno delle grandi potenzialità, io tra i giovani, sperando che non resti uno sconosciuto, credo Orazio Labate, che ha scritto L'Oscuro, è un romanzo molto barocco se vogliamo, da buon siciliano, però di grande impatto. Ringraziamo Davide Morganti, lasciamo la scuola, siamo nella strada partenopea e parte napoletana, arriviamo a Caianello dove c'è il cigno di Caianello, cioè Totò, nella nostra sigla. Mia bella signorina che ascolti lassù, so chiudi gli occhi e sogna finché c'è la gioventù. Ed eccoci a parlare di musica con Franco Schipani. Ciao Franco. Ciao Alessandra. Tu ora dove sei? Se vivi un'altra storia, con chi stai? Antonello Venditti, che è nato a Roma, via Zara, quartiere Trieste, più precisamente poco lontano da un liceo che si chiama Giulio Cesare, che lui ha frequentato con, diciamolo, alterne fortune. Ecco, davanti al liceo c'è il bar Tortuga, dove il cantautore faceva base come tutti gli altri studenti. Del resto, cara Alessandra, tu andavi nel bar davanti a scuola quando andavi a scuola poco tempo fa? Eh beh sì, Franco, chi non lo faceva? E come funzionava? È che uscivi da scuola e restavi fuori scuola al baretto. Quindi dicevi a casa, non ho fatto 4 ore oggi, me ne ho fatte 5. 8. Comunque, Tortuga, questo bar, è anche il titolo del suo nuovo album che Venditti porta in giro in Italia insieme ai suoi più grandi successi. Ecco, domani, 21 novembre, l'appuntamento è all'Arena Spettacoli di Padova Fiere. Mama, take this badge off of me. Se invece vi piacciono i cantautori americani, ecco, non potete mancare uno dei più grandi in assoluto, che è Bob Dylan. Domani 21 novembre e dopodomani 22 di scena con la sua band al Teatro degli Arciboldi di Milano. Due appuntamenti da non mancare perché ne vale la pena. Anche Domenico Modugno è considerato un cantautore, uno dei primi sulla nostra scena musicale, ed è un rivoluzionario. Un talento poliedrico, oltre alla musica, Modugno, lo sapete, è stato attore di cinema, di teatro, di televisione, varietà, è stato regista, produttore e anche uomo politico. La malattia lo aggredisce negli ultimi anni della sua vita, ma Modugno è un combattente e l'affronta a viso aperto. L'ultima in una vita fatta di sfide. Ce la racconta Giovanni Minoli. Restate con noi.